TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il voto sulla riforma costituzionale potrebbe aprire nuovi scenari politici e indubbiamente aprirà delle riflessioni all'interno dei partiti, ma nella società civile ha già segnato un punto, attirando l'attenzione dei giovani che si sono sentiti coinvolti dalla scelta. Magistrati e gli avvocati hanno preso parte attiva nella campagna per il sì e per il no. Sentiremo due opinioni sull'esito del referendum. È morta la donna di 49 anni investita in viale Miramale sulle strisce pedonali un mese fa, un urto violentissimo che l'ha sbalzata per circa 20 metri e che l'ha ridotta in coma, condizione dalla quale non si è mai svegliata. Lascia una figlia adolescente. Gorizia e Nova Gorizia rimangono collegate con il bus transfrontaliero che faceva la spola tra le due città durante la capitale della cultura europea. Buongiorno da Daniele Lettige e Nada Cioc. Partiamo anche in questo GR dal voto sul referendum che, oltre a essere una chiara scelta dei cittadini in merito alla riforma costituzionale sulla giustizia, ha anche delle connotazioni politiche. Secondo alcuni analisti potrebbe addirittura aprire nuovi assetti all'interno dei singoli partiti, ma è stato anche un catalizzatore per il voto dei giovani. Il Friuli Venezia Giulia è andato in controtendenza rispetto al resto d'Italia sul referendum. In compagnia di Veneto e Lombardia, in regione si è prevalso con oltre il 54%, un segno di sostegno alla maggioranza di centrodestra, secondo il sondaggista Roberto Weber di XE. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, piaccia o non piaccia, c'è una solidità di governo. È evidente che risulta attrattiva in qualche misura. Tuttavia, l'analisi territoriale mostra alcune differenze. È evidente la divisione tra come hanno votato le province di Udine e Pordenone, nettamente a favore del sì, rispetto a quelle di Trieste e Gorizia, dove ha prevalso il no. Altro dato di rilievo è la differenza tra i capoluoghi e i centri più piccoli. Il no ha prevalso nei 5 comuni più grandi della regione, Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Monfalcone, tutte città guidate dal centrodestra, peraltro tranne Udine. Un dato interessante in vista delle amministrative del prossimo anno che coinvolgeranno Trieste e Gorizia e dovrebbero vedere il ritorno delle provinciali. Notevole anche in regione l'affluenza. A Trieste ha sfiorato addirittura quella delle ultime politiche. Un pezzo di società civile che tendenzialmente è fuori dal gioco politico o si chiama fuori dal gioco dei partiti ha scelto di andare e quindi dando una risposta di tipo civico. È ovvio che con un'affluenza alta il peso del referendum è come una chiamata in questo caso. Sul voto dei giovani più inclini al no ha avuto un ruolo non secondario il contesto internazionale, secondo Weber. Io credo che abbia inciso Trump, abbia inciso Gaza, abbia inciso la guerra in Iran, abbiano inciso queste cose qua, e non poco. Altrimenti non avremmo avuto questo massiccio voto dei giovani. Ancora una volta il dibattito sul referendum costituzionale e le motivazioni di chi ha scelto di votare sì o no sono sembrati lontani dal merito. Il merito francamente era molto ma molto difficile e questo fa anche dire che forse era un referendum sbagliato da questo punto di vista. Quella è una roba che andava risolta in Parlamento. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Per il consigliere regionale del Patto per l'Autonomia Civica FVG Massimo Morettuzzo, quello di ieri è stato un voto politico che è andato ben oltre i contenuti tecnici del quesito referendario. Arriva, dice Morettuzzo, dopo un clima di forte esasperazione alimentato in primo luogo dal governo e dalla presidente Meloni, che hanno utilizzato toni decisamente fuori luogo, così nella sua nota Morettuzzo. Sentiamo ora l'analisi dell'esito referendario da parte degli addetti ai lavori, un magistrato che ha votato no e un avvocato che invece ha votato sì. Li ha intervistati Francesca Terranova questa mattina. Buongiorno Regione, sentiamo. Il risultato di questo referendum fotografa più un clima politico o noi cittadini abbiamo davvero capito questa materia così tecnica come quella che regola gli organi di autogoverno della magistratura? Alessandro Cuccagna, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste. Rispondeva, non lo nascondo, a un'esigenza portata avanti dall'avvocatura da molti decenni. Sicuramente la gente non credo abbia capito appieno la questione, proprio perché è stato anche connotato dal nostro punto di vista da un forte impatto politico. Nicola Russo, sostituto procuratore del Tribunale per i minorenni del Friuli Venezia Giulia. Il referendum è stato politicizzato e forse anche il risultato nella regione lo dimostra, perché nella nostra regione la giustizia rispetto al panorama nazionale funziona meglio che altrove, però qua insomma, hanno avuto un riscontro sicuramente positivo. C'è qualcosa che col senno di poi la campagna referendaria ha semplificato o distorto e che andrebbe detto con più chiarezza? Il sostituto procuratore Russo. Si è distorto proprio il senso della riforma, passata come una riforma della giustizia quando era l'ennesima riforma della magistratura, stavolta in senso punitivo e anche svilente per quella che è la categoria, quando in realtà nulla cambiava circa appunto le risorse a disposizione dei magistrati, degli operatori amministrativi, degli stessi avvocati. È stata proprio una frode delle etichette. L'avvocato Cuccagna. Come avvocati, capendo anche i timori di qualcuno, ci eravamo detti, per l'ipotesi in cui fosse prevalso il sì, che avremmo dovuto vigilare, perché l'intento dell'avvocatura è che la magistratura deve essere assolutamente garantita nella sua indipendenza e nella sua totale autonomia. Di questa esperienza referendaria resta indubbiamente la vittoria della partecipazione alle urne, tra le più alte degli ultimi anni. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca: è deceduta senza mai essersi svegliata dal coma Barbara Semeraro, di 49 anni, investita sulle strisce pedonali a Trieste in Viale Miramare il 12 febbraio scorso. A investirla un furgone guidato da un 22enne triestino. Nell'urto la donna era stata sbalzata per circa 20 metri. Con la morte della donna, che lascia orfana una ragazza di 14 anni, si aggrava anche la posizione dell'automobilista, che dovrà rispondere di omicidio stradale. Nel corso dell'ultimo fine settimana, il comando della Compagnia di Carabinieri di Udine ha disposto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio. Sono stati quindi denunciati due ragazzi di 20 e 18 anni residenti in provincia di Udine per furto aggravato e porto ingiustificato di armi, cioè due coltelli di 20 e 30 centimetri di lama e un martello. I due giovani hanno sottratto da un supermercato nei pressi del centro studi alcuni generi alimentari, nascondendoli negli zaini. I carabinieri, intervenuti su richiesta del personale del negozio, hanno sottoposto a perquisizione i due, trovando in loro possesso, oltre alla refurtiva, anche il martello e i due coltelli di notevoli dimensioni. E altri due minori stranieri, allontanatisi volontariamente da una struttura di accoglienza fuori regione, si sono resi responsabili di due furti avvenuti in un centro commerciale alla periferia di Udine e sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. I due hanno dapprima asportato alcuni capi di abbigliamento in un negozio, poi si sono recati in una profumeria dove hanno rubato alcuni profumi di ingente valore. I carabinieri, una volta individuati i due, che nel frattempo avevano raggiunto i parcheggi esterni, hanno trovato nei loro zaini la refurtiva. I due adolescenti sono stati affidati ad una struttura d'accoglienza locale. Un'operazione della Guardia di Finanza partita dal porto di Genova a caccia di una rete di contrabbandieri di tabacco gestita dalla mafia curda ha toccato anche Trieste. Più di 100 militari della Guardia di Finanza impegnati nelle perquisizioni in tutta Italia sono arrivati appunto anche a Trieste con un'operazione coordinata dalla sede torinese della Procura Europea e che era partita dall'analisi delle movimentazioni dei container in arrivo nel porto di Genova. L'indagine si è sviluppata per oltre un anno documentando l'esistenza di un'organizzazione transnazionale con base operativa nel Regno Unito e collegamenti in Europa, Asia ed Africa, con a capo persone riconducibili alla mafia curda. La banda acquistava direttamente il tabacco lavorato presso le fabbriche produttrici in Armenia, Dubai e Spagna e trasferiva i guadagni del traffico grazie a criptovalute per dissimularne l'origine ed eludere eventuali sequestri. 5 le persone arrestate, 32 le tonnellate di tabacco sequestrate, sequestrati anche beni per 2,5 milioni di euro. Tra le eredità di Go 2025, la capitale europea della cultura che l'anno scorso ha accomunato Gorizia e Nova Gorizia, c'è anche il trasporto pubblico locale transfrontaliero a partire dalla linea di bus che collega le stazioni delle due città passando attraverso il centro storico di Gorizia. Se ne è parlato nella conferenza stampa iniziata poco fa al comune di Gorizia, conferenza alla quale sta partecipando anche l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante e il sindaco di Nova Gorizia Samo Turel e quello di Gorizia Rodolfo Ziberna. Sentiamolo. nascono a dire vero prima ancora di Go2025, e se Go2025 e se la cultura è uno strumento straordinario per veicolare informazioni, veicolare amicizia, veicolare sentimenti di pace, questo per quanto riguarda la componente ideale. È vero che il trasporto di persone è un qualcosa che riesce ad agevolare un rapporto umano, perciò la reciproca conoscenza e la reciproca fruizione del territorio vale per servizi pubblici, dalla sanità al lavoro, alla componente commerciale. Ecco perché ringrazio l'amministrazione regionale, ma anche il consorzio del trasporto pubblico locale insieme al GECT, per aver confermato questo importante collegamento tra le due città, che perciò va oltre il mero simbolismo, per agevolare e continuare a rafforzare le relazioni tra le due Gorizie. Siamo al tempo, il cielo è sereno su pianura e costa e nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 16 gradi, a Pordenone 16,5, a Udine Gorizia 17, a Sappada 8, a Forni di Sopra Tarvisio 11, a Tolmezzo 14. Sul Monte Lussari 1,5 gradi, sul Monte Zoncolan 3, sulla costa a Grado 15,5 gradi, a Lignano 16,5. E queste invece sono le previsioni dell'ARPA. Oggi pomeriggio in serata, prevalenza di bel tempo, con cielo sereno, poco nuvoloso, su pianura e costa, variabile sui monti. I musei civici sono un patrimonio prezioso in cui si specchia una città, un patrimonio la cui gestione a Trieste è affidata a una cooperativa che nei confronti dei dipendenti presenta diverse inadempienze organizzative e di sicurezza. I lavoratori questa mattina hanno denunciato le carenze con un presidio in piazza. Una storia infinita quella dei lavoratori dei musei civici di Trieste, circa un centinaio. A gestirli è da più di un anno la cooperativa sociale Cristoforo di Pontassieve, che secondo il sindacato Fesica Confsal non rispetta i termini del capitolato di appalto. Il sindacato ha organizzato quindi un presidio in Piazza Unità, nel quale tanti sono stati i problemi denunciati dai lavoratori: carenze organizzative, inadempienze riguardanti la sicurezza e la formazione, dotazioni e divise del personale insufficienti, pressioni psicologiche sui dipendenti. Le richieste del sindacato sono rivolte anche al comune di Trieste, responsabile dell'appalto, con cui c'è un dialogo aperto. La scorsa settimana c'è stato un tentativo di conciliazione tra le parti in prefettura, finito senza risultati. Il sindacato ha preparato un dossier per segnalare le irregolarità e prevede presidi davanti ai musei per dopo Pasqua. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Sempre a Trieste è stato avviato un progetto per l'autonomia abitativa. Sentiamo i dettagli in questo servizio. Ha trovato casa grazie al progetto LGNet. È un ragazzo di 22 anni, arrivato dall'Afghanistan dopo un lungo viaggio della speranza, e oggi lavora al cantiere navale di Monfalcone. La sua è una delle oltre 30 storie a lieto fine seguite dal comune di Trieste attraverso il progetto LGNet, acronimo di Local Government Network, un'iniziativa europea che punta a favorire l'inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi attraverso iniziative volte all'autonomia abitativa. L'assessore alle politiche sociali Massimo Tognolli. Il tema dell'abitazione è un tema importante, lo è anche e soprattutto nella nostra città, che vede un combinato disposto tra il corridoio balcanico e il tema del turismo, un tema bellissimo che però ovviamente pone anche dei termini dal punto di vista abitativo. Affitta con fiducia, abita con rispetto, il titolo dell'incontro a Palazzo Gopcevic, un principio che non sempre è facile implementare perché la scarsa fiducia nello straniero continua a rappresentare un grande ostacolo. Roberta Milocco, presidente della cooperativa Libra. Anche perché il mercato immobiliare privato triestino ha avuto un'impennata dal 2021, per cui il proprietario può essere davvero molto selettivo. Il cittadino straniero rappresenta a volte una minaccia, in quanto insomma diverso. Le persone seguite sono in prevalenza pakistani, uomini dai 40 ai 60 anni che lavorano con contratti a tempo indeterminato nel campo della ristorazione e della cantieristica navale. Anna Valentino, referente LGNet. Tutte persone con le quali abbiamo fatto un lavoro anche di money tutoring, quindi proprio di gestione di bilancio delle entrate, e questo ha favorito la ricerca della locazione, perché saper gestire le proprie entrate vuol dire anche poi sostenere, una volta trovata, un'abitazione. Il progetto è promosso dal Ministero dell'Interno in collaborazione con 22 comuni italiani. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'inverno in montagna ha fatto il pieno con il 6% delle presenze in più rispetto a un anno fa che è già andato molto bene. Un'altra stagione invernale da record per i sei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia. Sono tutti positivi i dati economici illustrati questa mattina dal presidente della regione Massimiliano Fedriga, che hanno visto aumentare gli sciatori presenti sulle piste della nostra regione del 6% rispetto alla scorsa stagione, che già aveva registrato i numeri in assoluto più alti nella storia del turismo invernale del Friuli Venezia Giulia. Analizzando i numeri, balza all'occhio gli oltre 960.000 primi ingressi, cioè coloro che hanno acquistato per la prima volta uno ski pass per passare una giornata sugli sci, mentre sono stati superati per la prima volta da quando si scia nella nostra regione i 10 milioni di passaggi, in sostanza quante volte un utente ha usufruito di un impianto di risalita. Tutti con il segno più le singole località, il primo posto lo conquista Forni di Sopra con un più 14% rispetto alla stagione 2024-2025, Piancavallo incrementa dell'8,9%, terzo gradino del podio a Tarvisio con un 7,7% positivo. Guadagna oltre il 5% di sciatori Sappada, sempre rapportati alla scorsa stagione, Zoncolan il 2,2% e Sella Nevea fino ad oggi aumenta del 2,6%, visto che in questa località si potrà sciare fino al 6 di aprile. Ha funzionato la nostra politica di applicare tariffe basse ai prezzi degli ski pass, ha sottolineato Fedriga, garantendo non solo un ottimo afflusso di sciatori, ma dando la possibilità alle famiglie di passare una giornata sulle nostre splendide montagne a costi contenuti, ha concluso il governatore. Trieste, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi si celebra la giornata della sicurezza delle cure. Nell'auditorium della regione di Udine un convegno per fare il punto sulla prestazione delle cure che deve essere quanto più omogenea sul territorio. Giornata dedicata alla sicurezza e alla qualità delle cure a Udine, nell'auditorium della Regione. Un momento di confronto tra professionisti sanitari, si tiene dal 2013, per garantire l'erogazione di prestazioni con gli stessi standard di qualità, evitare infezioni o effetti avversi o usi errati dei farmaci. Il professor Brusaferro ha insistito sulla necessità di fare sinergia e collaborare. Soprattutto le persone più fragili, portatrici di più patologie, hanno bisogno di una molteplicità di prestazioni che devono essere coordinate anche a livello domestico, dove sono seguiti da caregiver o badanti. La rete Cure Sicure raccoglie informazioni che provengono dai cittadini, professionisti e aziende sanitarie, un sistema di monitoraggio continuo per attuare azioni correttive e di prevenzione degli errori. Barbara Lavia, coordinatrice della rete Cure Sicure. E anche dei materiali che vengono poi distribuiti ai cittadini a livello domiciliare, ma anche facciamo formazione ai medici, agli infermieri, e diamo la possibilità, insomma, attraverso anche delle linee guida di correggere determinati comportamenti che possono comportare errori. Attenzione all'uso appropriato di farmaci e antibiotici. Sicuramente siamo migliorati sulla sicurezza in ambito di terapia farmacologica e terapia antibiotica, quindi evidentemente le azioni cominciano a dare dei risultati importanti. Sottolineata nuovamente l'importanza di lavarsi le mani, in questo periodo censita una minore attenzione per una pratica che evita la trasmissione delle infezioni. Silvio Brusaferro, direttore della struttura a rischio clinico di ASUFC e docente all'Università di Udine. Misurare questo elemento, cosa importante e continua che in questa regione si fa, è un modo per cogliere anche questi trend e lanciare un appello a dire dobbiamo riprendere ovviamente questa buona abitudine. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Si amplia la rete di collaborazione tra istituzioni scientifiche del territorio impegnate nella promozione della parità di genere nel contrasto alla violenza e alle discriminazioni. Elettra Sincrotrone Trieste entra infatti nella convenzione tra Area Science Park e il GOAP, gruppo operatrice antiviolenza e progetti, già estesa lo scorso anno anche all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. La collaborazione con il GOAP di Area Science Park, OGS ed Elettra Sincrotrone punta a rafforzare queste azioni valorizzando il ruolo che gli enti di ricerca possono svolgere nel promuovere ambienti di lavoro sempre più attenti ai temi dell'inclusione e della parità, oltre che nel favorire una maggiore consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere. Il progetto di lettura della regione Leggiamo 018 ha tracciato questa mattina a Villa Manin di Passariano un bilancio del 2025 e annunciato le iniziative previste per quest'anno, il 2026. In una conferenza stampa a cui hanno partecipato tra gli altri l'assessore regionale alla cultura Anzil, il presidente del Centro per il Libro e la Lettura Giuseppe Iannaccone e Viviana Urban dell'Associazione Italiana Biblioteche del Friuli Venezia Giulia. Sentiamola in questa intervista. Questo programma della Regione Friuli Venezia Giulia è radicato e ha cambiato nel tempo il rapporto e la consuetudine con la lettura da parte di bambine e bambini, ragazzi e ragazze, ecco, per quello che è l'arco 0-18 anni. Ha consentito di incontrare e di far divenire quotidiana la lettura in ambienti dove vivono bambine e bambini, ragazzi e ragazze, quindi a cominciare dalla famiglia, la scuola e anche luoghi diversi, luoghi democratici, servizi come le biblioteche e servizi anche di tipo assistenziale, pensiamo agli ambulatori pediatrici, ai consultori, ai servizi di neuropsichiatria infantile. Che cosa prevede invece il programma di Leggiamo per questo 2026? Di mantenere delle costanti, quindi di consolidare le buone pratiche che abbiamo messo in campo con dei progetti precisi, Nati per Leggere, Crescere Leggendo, la Radio Education, la formazione per gli adulti. Cercheremo di arrivare ancora in luoghi diversi, per cui intercetteremo la rete museale della nostra regione e andremo con la Summer School, che è il nostro biglietto da visita della formazione per adulti, andremo per la prima volta verso la montagna e quindi saremo a Tolmezzo. E poi una novità molto interessante per il 2026 sarà la Summer School dedicata ai giovani a Villa Manin a settembre. Chiudiamo con lo sport, con lo sci alpino. Nella penultima gara di Coppa del Mondo a Afiel in Norvegia, al termine della prima manche, Lara Della Mea si è classificata 21esima a 4 secondi e 4 centesimi di distacco dalla prima, la statunitense Michaela Schifrin. Per Della Mea una discesa molto prudente anche a causa del mal di schiena accusato in settimana. La seconda manche scatterà tra poco alle 13.30 con telecronaca diretta su Rai Sport HD. E con questo chiudiamo questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Daniele Letti, Genada Cioc, con la collaborazione tecnica di Riccardo Stoici e Valentina Romanese. Ha collaborato in redazione Samantha Gonda. Tutti noi l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.